poco meno mai, prevede di parlare di guerra, di persona cucinata variamente, fino al punto nella versione di personalità virtuale, nonché, se il tempo vorrà, di contraccezioni con aggettivi.